Ecco, io credo che su questo campo dei giochini cosiddetti forse qualche regola bisognerebbe darla, perché oggi davvero c'è un vuoto legislativo. Se questi hanno potuto avviare una attività commerciale su una cosa così importante e così sentita e così tra l'altro intoccabile sotto il profilo della correttezza, beh, probabilmente perché dobbiamo sollecitare non solo UEFA, pallone e calcio, ma anche i nostri parlamentari a intervenire in tal senso. Credo che dovremmo guardarci più in casa a vedere se si può fare qualcosa, e poi i nostri parlamentari.